mi lasci, io voglio lasci, carichi i cannoni avanti marci, un roman con in bocca un blunt, fumo, gola asciutta, boffo pasta asciutta, e la mente distrutta, roto wash, paper shop, coffee shop, come in paradiso, gli occhi come chicchi di risoscotti, biscotti, space cake nello stomaco, catrame nei polmoni, che scende come intonaco, colpo di tosse, crio bombe grasse, mani ghost TV, bombe nelle vostre tasche brasche, maschere pollanze, un triple trip match, per il mix di sostanze, fuma fuma, mangia mangia, bevi bevi, change party, no rami, no semi senza freni, sull'autostrada dei fuori, consumatori, fumo denso spesso nei polmoni, hash, vino, anfetamina, dammi la mia sostanza che t'arriva domattina, hash, vino, anfetamina, dammi la mia sostanza che t'arriva domattina, prevedo la serata con la minima 100, mi muovo, bevo e balle, non riesco a stare fermo, brucio in un inferno, fiamme di adrenalina, tulipano giallo, cilindretto colombina, e percepisco i colori, bevi rocchetta, belli dentro, belli fuori, e sto sparlando, io non capisco, è tutto confuso, vado a fare un altro pit stop, chiamami Pippo bro, è più neone do, bottiglia o naso non so, sempre sotto la console, vite ventricoli a tempo, ne metto un'altra nel bicchiere, e attendo che si sciolga tutto, e butto nello stomaco, Frankie, ultimo pezzo del domino, due frasi resti attonito. Mani Ghost TV, ti aspetto dentro al monitor. Hash, vino, anfetamina, dammi la mia sostanza che t'arriva domattina. Hash, vino, anfetamina, dammi la mia sostanza che t'arriva domattina. Chi non beve vino, Dio, neghi anche l'acqua. Sciacquati la bocca, sbocca tutta la vodka. On the rocca, belli, so Jerez. Bevo il Mediterraneo, niente fin di Salvadores. Montenegro, negroni, milioni di litri escono dai miei coglioni. Ubriaconi, di basso livello, novello tavernello, fonte tanto su che sempre quello. Andiamo senza ritegno, fino all'infinito, subito mojito, dammi quello che vuoi, tanto qualunque sarà il mio preferito. Tequila, avanti con la batida, tutto quello che ti dà la testa è benvenuta. Con cannuccia alla goccia, basta che ti imborraccia. Vaffanculo, vado a prendere. Vado, dove vai?